tempo di sport. Gli europei con gol di Amaury. Americani invece per l'Inter e per il Milan, nerazzurri poi sconfitti, calci di rigore 6-5 dei messicani dell'America, segnato Cordoba, Milan 2-2 contro i Galaxy, Beckham contestato dai suoi attuali tifosi, hanno segnato Thiago Silva e Inzaghi, stiamo parlando sempre di match giocati su standard e ritmi molto molto amichevoli. Si stanno giocando anche in giro per il mondo un po' di partite ufficiali, in un campionato che sicuramente è un po' lento, è meno competitivo di altri, eppure c'è un giocatore che continua a esibirsi, a segnalarsi, a entusiasmare con grande personalità in merito, grazie al merito acquisito nel corso degli anni, ha un valore totale da fuori classe, un assist, un rigore conquistato, uno fallito e poi anche altro, come possiamo sentire, per Ronaldo. Lo sentiremo tra poco con le indicazioni che arrivano ora proprio su questo brano raccolto dalla TV brasiliana. Olha que boa jogada do Jusilei, bota a bola na frente, se enrolar pro Ronaldo, ele fica na cara do Fábio! Jusilei, uma meia lua, acalma. Sesto gol in 7 partite per Ronaldo in Brasile, 17esimo e 25 totali con il Corinthians, insomma così un omaggio per un giocatore che continua a imporsi ad alto livello anche nel suo paese, difficile dire se poi questo gli permetterà di essere ai mondiali il prossimo anno, ci sono ancora molti mesi, c'è ancora molto da vedere, da capire e da valutare nel corso di questo periodo. Però a proposito di gare ufficiali, di appuntamenti che valgono, la stagione sta per iniziare in Italia, inizierà tra poco con la Coppa Italia, poi la Roma sarà impegnata a fine mese in Europa League, inizierà il campionato tra un mese e inizierà una nuova stagione anche per gli arbitri. Ne vogliamo parlare sotto vari aspetti, prima quello prettamente tecnico, poi quello anche un po' più politico, partendo da Graziano Cesari, che da anni ormai è un ammirato commentatore televisivo, prima Controcampo, l'anno scorso insieme a me a Mediaset Premium abbiamo lavorato con attenzione anche all'evoluzione di questo nuovo gruppo di arbitri. Graziano, bentornato, buon pomeriggio. Bentornato, ciao Massimo, ciao ai tuoi ascoltatori. Tecnicamente siamo all'inizio del terzo anno della gestione di Pierluigi Collina. Cosa ci è rimasto di questi primi due anni e a che punto è l'evoluzione del nostro sistema arbitrale? Beh, ci è rimasta la voglia di vedere arbitri pronti, preparati per arbitrare in modo degno il campionato italiano. Non è che abbiamo visto moltissimo negli ultimi due anni. Ci è rimasto tanti giovani, due su tutti, Orsato e D'Amato, che l'anno prossimo si attesteranno a diventare internazionale, quindi avranno le fatiche in più delle competizioni internazionali. Ci è rimasta la delusione perché tanti arbitri che potevano fare qualcosina in più sono rimasti fermi a quel livello, a un livello bassissimo. Da cosa dipende questo secondo te? Ma ti devo dire, dipende moltissimo dalla formazione, dalla professionalità, dalla voglia anche di miglioramento che ognuno di noi ha insito in se stesso. E poi ho trovato un Collina molto democristiano, molto Prima Repubblica, il Collina che conoscevo io, il Collina decisionista, il Collina con tantissima personalità che si scontava con i mulini a vento, beh, è diventato un Collina che si agita moltissimo, ma insomma non si sembrano buoni risultati, prova ne sia che insomma spesso si sente parlare, ho sentito Carraro, redivivo Carraro nella sua conferenza di Sky, ha detto Collina sì, l'avevamo scelto, ma insomma se non si dà una mossa forse è ora di cambiare, no? Collina non può essere indistruttibile, non può essere sempre lui a sopportare questa cosa, e questo è un monito anche per Pierluigi. E questo monito è stato interpretato da molti anche in base alla nomina di Stefano Braschi alla CAN Pro al posto di Dal Forno, si è parlato molto anche di questo, con la prospettiva che Braschi poi possa diventare tra un paio d'anni il designatore della Serie A e della Serie B. È una prospettiva plausibile o andiamo troppo in là con i ragionamenti e le ipotesi? No, Assolutamente no, credo che Stefano Vacchi abbia fatto un buonissimo lavoro al Comitato Regionale Toscano, tant'è che Nicky non ci ha pensato due volte a sostituire Dal Forno con Vacchi alla guida della C, così come ha sostituito, è entrato negli organici Farina al comando della Lega Dilettanti. Quello che mi ha stupito sono le prese di posizione dei due presidenti, Tavecchi e Macalli, sì, che hanno immediatamente bocciato le designazioni di Nicky, dicendo: ah, questo è uno statuto che non va bene perché gli arbitri non possono decidere in piena autonomia. L'arbitro è un servizio, quindi dovrebbero decidere in piena autonomia. E mi fa pensare moltissimo, riflettevo l'altro giorno sul nuovo statuto in cui Nicky dovrà proporre al presidente federale le candidature, poi come sempre decideranno le società. Sì. La situazione dal punto di vista tecnico ha visto la dismissione di alcuni, Farina per limiti di età dopo un anno di proroga, Airoldi e Girardi hanno chiuso la loro carriera, non c'è più Dondarini che ha chiuso male con Lecce Sampdoria, è stata la sua ultima partita un po' esemplare rispetto alla sua carriera, non ci sono altri giovani o mediamente giovani che non si sono imposti come Cavarretta, Marelli e Scoditti, però quello che Collina voleva cercare di fare era portare un livello medio più alto perché non ci fosse più una situazione come quella precedente in cui uno o due arbitri fossero considerati all'altezza di affrontare i big match, solo loro. Si è arrivati al punto in cui non solo Rizzoli e Rocchi, per fare i nomi più importanti, sono considerati unanimemente dalla gente, dagli operatori, da noi anche giornalisti in grado di arbitrare partite di altissimo livello? Guarda, innanzitutto c'è la riduzione del numero di unità, quindi questo mi fa pensare che l'anno prossimo ci sarà un utilizzo ben più compatto di direttori di gara. Dopodiché credo che sarà assolutamente necessario lanciare i giovani, ma non lanciare i giovani a un certo punto del campionato quando il nostro campionato di Serie A dice poco o dice quasi nulla, lanciarli già dalle prime domeniche, questo credo che sarà la sfida dell'anno prossimo. Dopodiché ti segnalo un ragazzo che si chiama Guida, che ha fatto molto bene in Serie C, è rimasto solamente per due anni in Serie C, quindi l'ho notato e l'ho visto diverse volte da arbitrare. Devo dire, questo secondo me è sua carriera, è giovanissimo, spero che abbia la fortuna di potersi inserire nel migliore dei modi già quest'anno. Naturalmente ci sono già messaggi al 349-238-6666 su questo tema e anche su altri, le telefonate come sempre all'800-24-00-24. Da Graziano Cesari vorrei capire, con un passo indietro anche per guardare poi con un occhio più completo alla prossima stagione, chi è stato l'arbitro migliore dello scorso campionato, perché Rizzoli ha avuto un ottimo inizio con Inter-Juventus e Juventus-Milan come buone prestazioni, poi su Inter-Roma e su Udinese-Milan ha avuto diverse difficoltà soprattutto in area di rigore, Saccani è avanti con l'età però l'anno scorso ha fatto comunque un passo indietro, Rocchi è rimasto nella memoria soprattutto per il pasticcio in Genoa-Juventus con il gol concesso al Genoa dopo aver fischiato l'azione per fermarla. Alla fine di queste considerazioni, qual è il nome che è rimasto più positivo secondo te? Senti, i nomi sono due. Uno perché Orsato chiaramente ha imposto quello che si aveva già evidenziato in Serie C, cioè la sua personalità, grandissima personalità. Io però sono un po' condizionato perché è anche un arbitro che a me piace molto, quindi se dovessi dire chi è l'arbitro migliore del campionato ti dico per il percorso che ha fatto, per le capacità, perché è l'arbitro del futuro, come si propone, per la signorità ti dico sicuramente D'Amato. Ma queste sono condizionate, quindi non è, il mio giudizio non è sicuramente un giudizio così, giusto, però ti devo dire, nel proseguo degli anni vedremo questo arbitro, questo avvocato barlettano, come si comporterà, e credo che sarà proprio lui a raccogliere il testimone. E poi tu sai benissimo quale sia anche da questo l'arbitro che io preferisco al mondo, che si chiama Busacca, tu lo conosci, sì, benissimo, ci hai viaggiato insieme, sai, sì, che è un grandissimo professionista e quindi si avvicina moltissimo a quel tipo, a quell'ideale di arbitro che auspichiamo possa essere di molti altri fischietti italiani. Sì, Busacca che ha arbitrato in maniera magistrale la finale di Champions tra Barcellona e Manchester United a Roma e che personalmente avevo avuto modo di conoscere nel viaggio verso San Pietroburgo in Champions, quando il Real ha vinto quella partita che avevo seguito nella scorsa stagione. C'è, Graziano, anche un nostro ascoltatore in linea che vorrei coinvolgere, Anselmo da Bologna, su un tema che è quello della moviola in campo, che è tornato prepotente di attualità durante la Confederations Cup. Buon pomeriggio, Anselmo, prego. Buon pomeriggio a voi. Allora, molto in sintesi, un suggerimento. Siccome i delatori della moviola in campo sostengono che si perderebbe un sacco di tempo, perché non, inserendo la moviola in campo, perché non dare la possibilità solo due volte durante la partita, solo due volte, al capitano, chiaramente, di poter interrompere il gioco, poter fare le verifiche attraverso la moviola con un tempo predeterminato, cioè gli arbitri esterni hanno 90 secondi per decretare, cioè se avallare la decisione dell'arbitro, intervenire o quant'altro, 90 secondi, ma dare la possibilità, ripeto, due volte durante la partita, l'intera partita, al capitano di poter richiedere la verifica su moviola in campo. Sì, in un po' come modo, quello che succede nel tennis quando il tennista chiede l'intervento del falco. Sì, sostanzialmente sì, perché in questo modo si allungherebbe la partita di, credo, di 5 minuti massimo, 6, dare la possibilità però solo due volte al capitano di intervenire. Credo che questo sia, perché altrimenti saremo l'anno prossimo a parlare sempre delle stesse cose e purtroppo credo che invece il supporto della moviola sia oggi diventato fondamentale, indispensabile. Guardi, credo che il supporto sia fondamentale, ma allo stesso tempo sono idee che rimarranno tali e non potranno essere concretizzate e messe in pratica finché la FIFA non ammetterà l'utilizzo della moviola in campo, perché ogni genere di modifica del regolamento deve essere portata in ambito nazionale o continentale su indicazione e su avallo della FIFA, che è il massimo organismo internazionale del calcio. Quindi sono tutte proposte, quelle che abbiamo sentito da lei come da tanti altri, che possono essere utili e possono essere anche concretizzabili, ma non lo saranno nella sostanza finché la FIFA non deciderà di portare la moviola a supporto delle decisioni dell'arbitro. E tutto sommato, quello che è accaduto nell'ultima Confederations Cup con l'episodio del calcio di rigore concesso a Brasile contro l'Egitto dopo una evidente segnalazione del quarto uomo all'arbitro che non aveva visto il fallo di mano al giocatore egiziano, tutto quello che è successo dopo, tutte le dichiarazioni di Blatter vanno in realtà nella direzione contraria e portano a una situazione che sicuramente non favorisce l'utilizzo della tecnica e della tecnologia nel mondo del calcio, né in Italia, né in Europa e neppure nel mondo. In attesa di recuperare il collegamento con Graziano Cesari, se riusciremo, abbiamo un problema tecnico, aggiungo un'osservazione che forse lui avrebbe fatto, comunque avrebbe integrato, perché ne abbiamo parlato spesso nel corso di questa stagione in studio durante le partite e nei post partita. La moviola non esiste nella pratica in maniera ufficiale, non verrà utilizzata, non viene utilizzata, ma spesso, molto spesso, è come se esistesse, perché gli arbitri hanno un contatto fisico con i nostri colleghi giornalisti a bordo campo, che sanno bene quello che è successo e se le decisioni che sono state prese dagli arbitri sono corrette o meno, e spesso possiamo vedere nel corso delle partite arbitri che cercano in maniera più o meno evidente, con più o meno classe, di rimediare a errori grossolani commessi nel primo tempo, perché poi nell'intervallo siamo tutti uomini, si parla, ci si confronta, siamo tutti deboli e possiamo poi cercare di recuperare, di rimediare errori clamorosi. Penso ad esempio a quanto è accaduto a Reggio Calabria, dove Saccani non ha concesso un rigore clamoroso alla Juventus nel primo tempo e poi ne ha concesso un altro molto meno evidente nella ripresa, perché sapeva chiaramente, umanamente, di essere in difetto. Forse non c'era neppure bisogno che arrivasse un supporto tecnico a farglielo notare. Bentornati da Massimo Callegari, seconda parte di questo primo appuntamento settimanale di A Tempo di Sport con Gigi Borghi in redazione e Fabio Cantadori in regia. Le vostre telefonate all'800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666. Tra poco torneremo a darvi spazio. Volevo completare però l'analisi sul settore tecnico arbitrale con Graziano Cesari, che con il quale abbiamo recuperato il collegamento. Non so se Graziano avevi avuto opportunità di sentire l'osservazione dell'ascoltatore precedente. Io ho provato un po' a sintetizzare il nostro pensiero rispetto alla moviola, che non esiste ma nella sostanza esiste già, soprattutto nella testa degli arbitri. Però completa pure tu il pensiero. No, devo dire che sono rimasto molto colpito, perché mi sembra una delle tante osservazioni che si possono fare sull'utilizzo della moviola. È chiaro che in questo momento, e credo che sia abbastanza plausibile il fatto che tutti gli arbitri vorrebbero utilizzare il mezzo meccanico. Sì. Siamo, e lo abbiamo visto anche come Webb, un arbitro internazionale, proprio la Confederation Cup si sia avvalso del suggerimento del quarto uomo, perché è giusto, perché nessuno vuole così interrompere una carriera e vorrebbe sempre fare bellissima figura. Questa potrebbe essere una delle soluzioni, in modo che gli allenatori chiedano una volta per parte l'utilizzo della moviola. Ci sono tante altre soluzioni. Certo che il problema è, nel calcio c'è un momento dinamico e un momento di sosta. La moviola deve essere necessariamente utilizzata nel momento in cui c'è una sosta, quindi un fischio dell'arbitro, quindi per un calcio di rigore, per qualche cosa. Non possiamo pensare che per un fuorigioco si possa utilizzare la moviola, quindi certamente sarebbe già un modo per rendere agevole una direzione di gara e sicuramente limitare gli errori. Su questo tema ha chiamato Carlo da Bergamo, buon pomeriggio, prego. Buongiorno, io sono un innamorato del calcio, ho visto la prima partita... Il vecchio Torino, qualche mese a Bergamo, prima che cadesse l'aereo del vecchio Torino, si immagini lei se non mi piace il calcio. Ecco, però secondo me quelli che predicano che vorrebbero la moviola non sanno il danno che darebbero al gioco del calcio, perché vorrebbe dire fermare il gioco e poi quando si riprende la disposizione dei giocatori, chi va a verificare se una squadra aveva il vantaggio dal contropiede oppure no? E chi vorrebbe dire stravolgere il tutto. Io no. Lo vedo bene invece, per esempio, sulle porte per il mancato gol. Sì, sì, allora, certo, ma è un po' quello che stavamo dicendo con Graziano Cesare, nel senso che chiaramente bisognerebbe intervenire con la moviola nei momenti in cui il gioco è fermo e per periodi e momenti molto, molto limitati. Su questo tema anche Marco dalla provincia di Milano, buon pomeriggio, dica. Buon pomeriggio a lei Massimo e buon pomeriggio anche al signor Cesare. Ho sentito lo spunto del signor Cesari sui tempi di sosta per la moviola, ma il tempo migliore sarebbe l'intervallo, cioè analizzare, fermare nell'intervallo, non so io, i giudici o chi altro che analizza vari errori che sono stati effettuati nella prima parte del tempo. E come si fa poi a recuperare sugli errori? Siccome so che avete tempi stringati di solito in queste situazioni, mi dilungherei anche un po' troppo, comunque sarebbe un agevolare anche lo spettacolo. No, ma come si fa a recuperare nell'intervallo se è commesso un errore? Se un rigore non viene dato, lo si viene analizzato e si certifica che il rigore non è stato dato nella prima parte, nell'intervallo. Se il rigore era, a fine della partita c'è un'ulteriore possibilità di dare spettacolo e quindi di rimediare un errore. Lo so che può essere una situazione un po' strana, però visto che si cerca continuamente di dare più spettacolo, questa è una cosa che viene un po' ripresa nella Formula 1, ad esempio. Sì, sì, no, sarebbe complicato, soprattutto qui coinvolgo Graziano Cesari, perché poi il calcio è uno sport molto psicologico, quindi pensare di giocare una partita sapendo che poi si è 0-0, ma alla fine gli altri possono tirare un rigore a partita finita, non è semplice, Graziano. Credo che sarebbe difficile far arrivare il portiere dell'altra squadra, molto difficile, più che altro. Non vorrei trattenere oltremodo Graziano Cesari, però mi avvalgo della sua presenza per l'ultima telefonata, almeno per ora, su questo tema. Gianmaria da Verona, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi. Un saluto a tutti, anche al signor Cesare. Buongiorno. La mia è una domanda molto semplice. Perché anche nel calcio non portare le stesse regole che ci sono nel basket o piuttosto nella pallavolo, quindi del tempo effettivo? Più che altro perché si vedono molte perdite di tempo durante le partite. Di conseguenza il tempo effettivo alla fine della partita giocato si riduce sempre ai 50-60 minuti, quindi con una perdita di tempo di mezz'ora. sono anche convinto che però no, minuti giocati effettivi per una persona umana siano anche tanti, però probabilmente abbassando il tempo di gioco, portarlo ai 60 minuti, a 30 minuti effettivi per tempo, penso che possa essere una soluzione. Sì, beh, Graziano, grazie Gianmaria. Graziano, in Europa e in Inghilterra è un parametro questo dei 30 per tempo che si sta cercando di raggiungere negli ultimi anni. È vero, è vero. Nel campionato italiano si gioca molto, molto poco. Noi spesso vediamo il tempo effettivo delle partite alla fine del riassunto e vediamo un tempo effettivo veramente limitato. Si gioca in media 20 minuti su 45. Devo dire che il nostro radioascoltatore con me sfonda una porta aperta, anche perché ti dirò una mia personale statistica, ma credo che tutti siamo in grado di poter utilizzarla e di poter andare a sapere quali sono effettivamente i tempi di gioco. Ci sono delle squadre che fanno questa una tattica, perché ci sono squadre che giocano in medio 40-42 minuti, ci sono delle squadre che giocano in media nel campionato 60 minuti e in 18 minuti ti posso garantire che cambiano spesso i risultati. Sì. Quindi poi ci sono delle squadre che sono più fallose, delle squadre che sono meno fallose, quindi alta tattica di gioco. È chiaro che il tempo effettivo eliminerebbe tacchitto questo piccolo problema, che poi non è un piccolo ma un grandissimo problema. Grazie davvero Graziano Cesari, a presto. Grazie a te Massimo, buongiorno a tutti. Grazie, buona estate a Graziano Cesari. Come vi avevo anticipato, abbiamo cercato di impostare il tema arbitrale su un piano tecnico. Alcune riflessioni di più ampio respiro anche sulla gestione politica del settore arbitrale federale sono già state introdotte da Graziano Cesari, però vorrei integrarle con chi settimanalmente sulla Gazzetta dello Sport si occupa di questo tipo di situazioni e non solo legate al calcio ma allo sport in generale, con la sua rubrica Palazzo di Vetro. Ruggero Palombo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dunque, questa autonomia dell'AIA che non piace ai vertici federali e che ha già provocato diverse reazioni, ci puoi dare innanzitutto la situazione in questo momento, come potrebbe cambiare, perché si è arrivati a questo tipo di gestione autonoma dell'AIA rispetto a quelle precedenti? Ma dunque, molto semplice, il calcio scandalo del 2006, il cosiddetto Calciopoli, portò a una riscrittura dello statuto della Federcalcio, tra le varie cose, il commissariamento, insomma la storia la conoscete, sì. Portò a una riscrittura dello statuto federale nella quale si ritenne di dare molto più spazio all'autonomia della classe arbitrale, ritenendo a torto e a ragione che poiché erano coinvolti nello scandalo anche vertici della federazione, fosse più utile una maggiore autonomia della classe arbitrale. Questa maggiore autonomia nel nuovo statuto scritto allora si traduceva nella totale libertà da parte del presidente dell'AIA, dell'Associazione Italiana Arbitri, di procedere alle nomine del settore. Questo cosa significa? Designatore di Serie A e B, designatore di C, designatore della Lega, dell'attuale Lega Pro, designatore dei dilettanti e tutta una serie di cariche relative anche ai comitati arbitrali regionali dell'AIA. Allora, ricordiamolo, il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, quando venne scritto questo nuovo statuto, era Cesare Gussoni, che era stato messo lì nell'ambito appunto del calcio scandalo. Sì. Come elemento di garanzia, un po' come Guido Rossi era stato messo a commissario della Federcalcio. Ora, questa disposizione che, ripensandoci, è una disposizione un po' bizzarra, calcolando che comunque, al di là di Luciano Moggi, al centro dello scandalo del calcio 2006 c'era per l'appunto la classe arbitrale, questa disposizione oggi ha provocato innanzitutto il cambiamento, questo in libere elezioni, del presidente dell'AIA stesso, che non è più Cesare Gussoni ma che è diventato Marcello Nicchi. Gussoni non si è ripresentato, c'è stata una gara tra Nicchi e Apricena, un altro prodotto interno dell'Associazione Italiana Arbitri, e ha vinto l'ex arbitro Marcello Nicchi. Nicchi adesso in fine di stagione, d'inizio di stagione 2009-2010, ha proceduto in autonomia, quindi secondo il dettato del nuovo statuto, a tutta una serie di nomine e diciamo che si è allargato un po', poi piacciono o non piacciono, comunque dietro la riconferma di Collina, designatore di A e B, ha poi praticamente rivoluzionato l'intero settore. facendo salire a bordo di varie nomine, per dire un esempio, ha nominato Braschi, sì, l'ex-arbitro Braschi, che non aveva nessuna qualifica in proposito e che nel frattempo era stato anche direttore generale o direttore sportivo del Siena, quindi aveva avuto un ruolo di dirigente in una società di calcio, lo ha nominato designatore per quella che riguarda la Lega Pro. Sì, credo abbia lavorato nel frattempo nel comitato regionale degli arbitri in Toscana. Comunque è stata una prima, cioè ha cambiato il designatore della Lega Pro, ha cambiato il designatore della Lega Dilettanti inserendo Farina, ha reimbarcato nello staff con cariche a diverso titolo Ceccarini, che già lavorava in seno al comitato regionale della Toscana, ha cambiato, vado a memoria, 14 su 19 presidenti di sezione regionale dell'AIA, ha inserito subito anche ex arbitri di fresca uscita di scena come Dondarini, Airoldi anche, no? Come Airoldi, come Airoldi, Dondarini. Nel caso di Dondarini c'è il piccolo particolare che in questo momento Dondarini ha una richiesta di condanna ai 2 anni pendente presso la Procura di Napoli, perché Dondarini ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato nel processo di Napoli, sì, è stato rinviato a giudizio, è in attesa di sentenza, non solo lui, e insomma l'opportunità, ragioni di opportunità al di là di questioni poi interne alla Federcalcio potevano far ritenere che quantomeno si potesse aspettare un attimo per rimettere in gioco persone che nell'autunno prossimo comunque saranno sotto sentenza e potrebbero, io non glielo auguro naturalmente, ma potrebbero teoricamente anche ricevere una condanna. Ricordiamo che si tratta di persone rinviate a giudizio sotto l'accusa un pochino sgradevole di frode sportiva. Ecco, a questo proposito ti chiedo di trattenerti ancora qualche minuto se puoi con noi, perché ci sono anche arbitri che anche l'anno scorso erano in condizioni non identiche ma simili a queste e hanno arbitrato. Nicchi ha ribadito sino al momento in cui si è insediato la presunzione di innocenza vale per tutti i liberi cittadini italiani, dunque anche per gli arbitri, e quindi loro arbitreranno finché non ci sarà un giudizio definitivo a loro carico. Terza parte di A Tempo di Sport, diversi vostri messaggi soprattutto sul piano tecnico, questo è piacevole a vedersi e a leggersi, nel senso che la vostra valutazione sugli arbitri e sulla gestione della classe arbitrale non è parziale o legata a fanatismi da tifoserie, bensì è più tecnica per cercare di migliorare nel complesso lo spettacolo di questo sport e la gestione anche umana dello stesso da parte di chi deve giudicare ciò che accade in campo. Noi stiamo affrontando con Ruggero Palombo, collega della Gazzetta dello Sport, anche la gestione politica del settore arbitrale e federale. Abbiamo riepilogato la situazione in questo momento dopo la nomina di Marcello Nicchi a presidente e le sue prime scelte. Stavamo completando leggero il discorso relativo a coloro che già da un po' sono inseriti nell'inchiesta di Napoli e sono anche in attesa di giudizio. C'è chi continua ad arbitrare, c'è chi ha appena smesso ma è rimasto in organico. Qual è la situazione in questo momento? Rimarrà tutto come l'anno scorso e dunque ci sarà spazio per tutti in attesa del giudizio finale? Per ora evidentemente sì, anche perché appunto c'è anche chi arbitra che è sotto giudizio a Napoli, a cominciare per esempio dall'arbitro Rocchi, ma sì, si tratta di figure che comunque la giustizia sportiva in un primo tempo ha ritenuto di assolvere con formula piena, quindi vediamo se poi la giustizia ordinaria penserà la stessa cosa. Quello che vorrei completare sul discorso che avevamo lasciato a metà è che questo statuto, sì, ha consentito a Nicchi di avere una piena autonomia di nomine. Non è piaciuto in federazione, non è piaciuto al presidente Abete, non è piaciuto questo uso esagerato dell'autonomia, non è piaciuto al presidente Abete, non è piaciuto al presidente della Lega Pro Macalli, non è piaciuto al presidente della Lega Dilettante Tavecchio. E siccome adesso lo statuto andrà in parte riscritto e riapprovato dall'Assemblea Generale entro la fine del 2009, verrà reinserita nello statuto una norma nella quale Nicchi avrà un pochino meno autonomia. Cosa dirà questa norma? Dirà semplicemente che le nomine dell'Associazione Italiana Arbitri vanno fatte d'intesa e sentiti il presidente federale e i presidenti delle leghe. Quindi, ecco, ma questo vuol dire che, esatto, si torna indietro e che le società tornano ad avere il riferimento al loro ruolo, al loro loro posizione nelle leghe anche una gestione non diretta ma comunque parziale sugli arbitri. Si torna a una situazione che secondo alcuni ha generato poi anche alcuni dei meccanismi che hanno portato a Calciopoli o no? Ma la questione è controversa, nel senso che l'intesa, il controllo sulle nomine verrà esercitato dalla federazione e dai presidenti delle leghe. È chiaro che scendendo per gli scalini uno può ritenere che siano addirittura le società ad avere voce in capitolo, però il problema di fondo resta quello che dicevo nell'intervento precedente. Non si capisce perché uno scandalo che al di là del nome di Moggi ha avuto come epicentro i vertici, i massimi vertici della classe arbitrale sia risolvibile dando a questa stessa classe arbitrale maggiore autonomia, laddove invece la federazione, e qui parlano anche le sentenze, al di là di un vicepresidente che è fuori e plurisqualificato, parlo di Innocenzo Mazzini, è uscita pulita dal processo di Napoli e quelli che erano coinvolti, il presidente federale dimissionario Franco Carraro e il direttore generale Francesco Ghirelli, sono stati archiviati a Napoli perché il fatto non sussiste, e cioè sono stati deresponsabilizzati di ogni colpa di carattere penale. Per chiudere, Ruggero, Carraro ha detto Collina al momento è super partes, quindi i problemi non se ne pongono, però non è neppure eterno. La sua posizione in questo momento è salda o è legata anche a eventi che potrebbero poi arrivare nel corso della stagione o della fine della prossima stagione? La sua posizione è salda perché Collina è il miglior sponsor di se stesso, però è chiaro che in questa situazione di nomine rappresenta molto la foglia di fico di un'autentica rivoluzione che sotto di lui è stata esercitata da Nicchi, e quindi io ritengo che già alla fine di questa stagione, siccome i mandati dei designatori vanno anno per anno, sì, come sapete, già alla fine della stagione 2009-2010 il suo nome potrebbe finire in discussione. Lì c'è già, tanto per non fare nomi, c'è già pronto Braschi a prendere il suo posto, e quindi staremo a vedere nella prossima stagione quante responsabilità o critiche potrà tirarsi addosso Collina e quante di queste saranno giustificate o non saranno invece piuttosto strumentali per arrivare a un certo tipo di soluzione. Grazie a Ruggero Palombo, collega della Gazzetta dello Sport. A presto. Grazie Ruggero Palombo per questa serie di annotazioni e valutazioni. Tra un attimo parliamo di nuoto, poi anche il motomondiale naturalmente. Ci sono però un paio di ascoltatori in linea, sicuramente innanzitutto Lino dalla provincia di Milano, l'800 24 00 24. Buon pomeriggio Lino. Buon pomeriggio. Senta, io volevo dare un suggerimento che mi sembrerebbe ovvio, che però non sento parlarne da nessuno a proposito degli arbitraggi. Se capisco bene, noi abbiamo 4 arbitri su ogni campo di calcio, cioè 2 guardaline, un arbitro nel campo centrale e un quarto uomo. Sì. Perché io mi domando non mettere il quarto uomo in campo, posto che siano tutti arbitri allo stesso livello, quello è un lavoro da fare. 2 arbitri in campo, uno per ogni area. Com'è possibile che un arbitro per 90 minuti io faccio un lancio dalla mia area piccola e sposto il gioco in 10 secondi vicino all'altra area? Come può un disgraziato di arbitro fare una corsa di 80 metri e prendere quello che accade, visione di quello che accade l'altra area in pochi secondi, precisamente, accuratamente, con il fiatone, il fischio in bocca, correndo? Non so no, se questo è vero, è chiaro che poi anche uno per ogni metà campo si consultano quando c'è un problema, brevemente, rapidamente si prosegue. No, ma c'è già una soluzione che risponde un po' a questo tipo di esigenze, che verrà provata nel corso di questa stagione e della prossima anche in partite ufficiali, che è già stata provata in tornei giovanili con gli arbitri di porta, quindi arbitri che saranno in aggiunta ai 4 della quaterna, arbitro, 2 assistenti e quarto uomo, e saranno alle spalle dei portieri e dunque potranno valutare da quella posizione in maniera migliore sicuramente quello che accade in area, per avere anche una prospettiva diversa e quindi avere 2 occhi che possano vedere la porta frontalmente, quelli dell'arbitro che osserva l'azione dalla zona centrale del campo e due occhi che invece possono vedere l'azione dalla prospettiva di fondo campo. Il quarto uomo è giusto che rimanga lì dov'è, perché ha una situazione, un ruolo di gestione, di supporto anche sul piano della lucidità, non essendo sottoposto allo sforzo fisico costante, che sono fondamentali e utili per gli arbitri. Tra poco ci saranno anche altri ascoltatori all'800 24 00 24 su questo tema e su altri. Ci sono anche un po' di messaggi, in particolare mi sembra interessante quello di Matteo da Bergamo, che dice di essere un appassionato di football americano. L'applicazione della moviola in campo per lui non è possibile nel calcio, ci sono troppe dinamiche differenti, servirebbe un po' più di sportività certamente per ammettere la colpevolezza da parte dei giocatori che commettono falli o che sanno di essere nel torto, però è anche vero che questo è un mondo ideale e difficilmente si arriverà a questo, anche se i calciatori, soprattutto in ambito europeo più che nel nostro campionato, è così, purtroppo è così, si stanno abituando a uno standard di correttezza, rispetto e sportività degli avversari e dell'arbitro decisamente superiore rispetto al passato. Ora i mondiali di nuoto. Nissan City Cars, welcome to simplicity. Vi presenta Roma 2009, mondiali di nuoto. Come ogni giorno, buon pomeriggio a Dario Ricci, che sta seguendo per noi i mondiali di Roma. Un saluto Massimo, un saluto a tutti voi. Dario, in attesa che inizino le gare di nuoto, questa mattina un'altra medaglia sfiorata per noi nel sincronizzato. Eh sì, abbiamo fatto come spedizione azzurra, abbiamo un po' fatto in questa prima settimana finora l'abbonamento a queste medaglie di legno, no? Abbiamo visto nei tuffi i fratelli Marconi, Tania Cagnotto ieri dal trampolino da un metro, tra l'altro Tania e insieme alla Dalla Pesce sono qualificate di slancio per le semifinali del trampolino dai 3 metri che si disputeranno nel pomeriggio, e oggi è arrivato un altro quarto posto, però di tutt'altro sapore direi Massimo, perché il quarto posto di Beatrice Adelizzi nel tecnico solo, sì, del nuoto sincronizzato rappresenta il miglior risultato nella storia del nuoto sincronizzato azzurro, veramente straordinaria la prova di Beatrice se si considera che sul podio sono andate veramente i mostri sacri della specialità, a partire dalla campionessa russa Ischenko, che ha confermato il titolo conquistato a Melbourne, sempre anche in questo caso di fronte all'altra grande protagonista del circus mondiale del sincronizzato, la spagnola Mengal, anche questa volta come 2 anni fa di bronzo, e a precedere Beatrice è stata la canadese Boudreau, ma insomma sembra che manchi poco per arrivare finalmente a questo podio nel sincronizzato. Per quanto riguarda invece quello che è successo ieri, la pallanuoto femminile ci ha regalato il successo semplice all'esordio, 23 contro l'Uzbekistan. Hai raggiunto il CT Roberto Fiori, che ha commentato così questo esordio vincente. Brutto, perché troppo preoccupate, no? Mi sembra lampante. Abbiamo scritto tutta la settimana che è una squadra giovane, una squadra rinnovatissima, e hanno sentito troppo. Meno male che non era, diciamo, un avversario di primo livello, di prima fascia, quindi c'è stata l'opportunità di sciogliersi, e poi hanno fatto anche delle cose pregevoli. C'è da lavorare ancora, come avevamo detto all'inizio, non è che stasera sono state fatte delle cose eccezionalmente belle o eccezionalmente brutte. È un percorso di lavoro che abbiamo intrapreso e dobbiamo continuare a lavorare, ma lavoreremo anche domani, lavoreremo il giorno dopo l'Ungheria, dopo la Cina. È una crescita sul torneo. Questo era il CT della nazionale femminile, il 7 rosa di pallanuoto che ha vinto ieri sull'Uzbekistan. Oggi invece il 7 bello, Dario, al debutto. Sì, oggi il 7 bello al debutto contro gli Stati Uniti, esordio certo complicato perché gli Stati Uniti sono i vice campioni olimpici, anche il 7 bello come il 7 rosa sta vivendo una fase di profondo rinnovamento sotto la guida di Sandro Campagna, uno dei componenti di quella squadra che vinse proprio l'oro mondiale, l'oro iridato qui a Roma nel 94 dopo l'oro olimpico del 92 a Barcellona. Insomma, si parte subito in salita, al contrario di quello che è capitato a Sette Rosa con il facile avvio con l'Uzbekistan. Quindi una vittoria oggi potrebbe pesare veramente tanto già in prospettiva quarti di finale, Massimo. Grazie a Dario Riccio, lo ritroviamo naturalmente nei notiziari, nei GR di Radio 24 e domani in A Tempo di Sport con i mondiali di nuoto a Roma. Buon lavoro Dario. Ultima parte di questo primo appuntamento della settimana di A Tempo di Sport. C'è una dichiarazione in particolare che è significativa tra le tante piuttosto omologate di questo inizio di stagione, è inevitabile che sia così, è quella di Alessandro Nesta dopo il match giocato questa notte pareggiato 2-2 dal Milan con i Los Angeles Galaxy. Ha detto Nesta: sono contento perché mi sento bene, ho nella testa chi ero prima dell'infortunio e quell'obiettivo è il mio primo. In questo momento ho bisogno di trovare un po' più di forza in generale, ma sto lavorando per quello. Dunque sono sensazioni molto positive quelle del ex difensore della Lazio, attualmente al Milan, fondamentali le sue sensazioni perché sono quelle che determineranno le capacità e le possibilità di un effettivo ritorno ai massimi livelli di quello che rimane il miglior prodotto della squadra difensiva italiana degli ultimi anni con Fabio Cannavaro. Alcune telefonate all'800 24 00 24, poi anche il moto mondiale. Vladimiro da Trieste, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Allora, volevo dire che io sono un arbitro del NF Board, che praticamente è il mondiale delle nazioni non riconosciute che si è svolto adesso recentemente, sì, e a cui ha vinto la Padania. No? Sì. E volevo dire che anche noi come board pensiamo di sperimentare queste innovazioni, tipo i giudici di porta, sì, e probabilmente anche il cartellino intermedio, che non so di che colore sarà, cioè praticamente un blu o arancione, non ho idea, sì, che praticamente serve un'espulsione temporanea. E anche noi come board al momento non reputiamo, diciamo, di usare queste tecnologie, anche se io penso che in futuro un giorno si potrebbero anche usare, perché la tecnologia ormai è andata così avanti e quindi reputo che, insomma, possa essere utilizzata in un prossimo futuro, ecco. Benissimo, è interessante. Praticamente è stato, sì, ancora questo vuol dire, il mondiale praticamente è stato diretto dall'ex arbitro Mario Mazzoleni, che ci ha dato tutte le disposizioni del, cioè, arbitro di Serie A, ex, insomma, ha dato tutte le disposizioni del caso, insomma, quindi anche, esiste anche questa federazione alternativa che sta che è un po' all'avanguardia, un po' un precursore rispetto a quel che sarà magari la FIFA, perché la FIFA prima di sperimentare certe cose magari ci mette un po', che venga fatto a livello minore, ecco. Certo, grazie. Ora Cesare dalla provincia di Ferrara, buon pomeriggio. Buongiorno a lei e grazie per avermi chiamato. Prego. Ascolti, due cose sulle nuove tecnologie che ci possono mettere a disposizione degli arbitri per aiutarli soprattutto. Tanto il falco nella linea di porta è facilissimo metterlo, perciò si può mettere tranquillamente. L'altra cosa è che bisognerebbe dare la possibilità al capitano o all'allenatore di fermare due o tre volte il gioco quando le azioni sono ferme. In questi casi io penso quando per esempio l'arbitro dal rigore fischia dal rigore, è dubbio, c'è la possibilità da parte dell'allenatore di fermare il gioco, tanto il gioco è fermo, se è un rigore dubbio stanno fermi un minuto, due minuti a discutere e a litigarsi i giocatori, no, con l'arbitro. Sì, sì, il tempo è lo stesso, minuto, dice lei. In mezzo minuto il gioco è fermo. L'altra cosa è quando l'arbitro, sì, dà un gol, che c'è la possibilità che sia in fuorigioco. Il gol è stato concesso, perché il gioco è fermo, discussioni, litigature di qua e di là. Si va prima a andare a vedere la moviola, c'è il quarto arbitro, verifica e dice sì, era fuori gioco, no, non era fuori gioco, tutto qua. Sì, sì, no, beh, certamente, lei dice il tempo alla fine che si perde a protestare sarebbe lo stesso che si usa per valutare le cose attraverso la moviola e i mezzi tecnologici. Chiudiamo questa serie di interventi all'800 24 00 24 con Giorgio dalla provincia di Milano. Sì, buongiorno. Io volevo tornare sul caso Ibrahimovic Inter. Io da tifoso interista spero che la trattativa Perretto all'Inter vada in porto, perché per certe cifre secondo me è assurdo rifiutare. Anche perché Ibrahimovic, se rimane all'Inter, è solo per un fattore economico. Se Moratti, volendo fare questa pazzia di rinnovargli il contratto, il problema secondo me non lo risolve, perché conoscendo il giocatore Ibrahimovic non passa neanche un anno e questo ritorna a batter cazzo da Moratti. Sì, non passa neanche un anno, anche perché poi non solo le pretese sono economiche da parte di questo giocatore, che è un fuoriclasse mondiale ed è anche un professionista nel senso lato del termine, non che abbia alibi nel caso non si comporti bene, però ci sono stati anche giocatori che hanno forzato le loro dipartite con prestazioni sul campo decisamente peggiori rispetto a quelle che ha proposto Ibrahimovic. Però l'anno scorso già Ibrahimovic forzò la mano sulla questione allenatore, si sa che lui è stato molto chiaro nel porre quasi una out a Moratti sulla presenza sua o quella di Roberto Mancini dopo aver deciso in sostanza il titolo con la doppietta nel finale a Parma. Quest'anno non ha lesinato comunque critiche a Mourinho, anche se molto velate, rispettando molto il carisma e l'autorevolezza del suo tecnico sul tipo di gioco, sull'impostazione che l'Inter ha avuto. Alla resa dei conti, se effettivamente ci fossero state queste difficoltà di gestione tecnica prima di Mancini e poi complessiva da parte di Mourinho, lo stesso Ibrahimovic ne avrebbe dovuto risentire. Non è lui l'unico che ha portato l'Inter a ottenere quel tipo di risultati, quel tipo di prestazioni, anche se la sua incidenza è stata evidentissima con i 25 gol quest'anno e con le prestazioni decisive in quella precedente. Però è chiaro, insomma, che non si può in assoluto, in ogni ambito professionale, nello sport e nel calcio tantomeno, essere continuamente soggetti a ricatti da parte di un giocatore e del suo procuratore, che insomma con il ritiro di Nedved dal calcio giocato e la partenza di Maxwell e Ibrahimovic potrebbe nelle prossime stagioni dilettarsi soprattutto con le radio spagnole e i giornali catalani e madrileni sulle condizioni, sui mal di pancia dei suoi assistiti. Roberto da Padova, buon pomeriggio. Buongiorno, grazie della telefonata. Prego. Volevo un argomento riguardo alla moviola in campo, comunque agli arbitri in campo. Io credo che un annoso problema che o politicamente non si vuole risolvere, perché si vuole, come dire, continuare le polemiche e far crescere anche, tra virgolette, una certa violenza poi che si accumula tramite imprecisioni che vengono fuori e critiche e poi anche ragionamenti strani, tipo tanti anni la Juventus, la squadra che comprava gli arbitri, faceva questo, faceva quell'altro. Quindi o non si vuole risolvere questo problema, o se si vuole risolvere, se l'azienda fosse mia, ci metto 2 secondi a decidere di attivare una certa attenzione a questo tipo di problema, perché oggi i miliardi sono tanti, non sono più milioni, sono miliardi veramente che gira intorno a sto giocattolo, e si deve assolutamente sistemare questo problema. Poi non sarà al 100% sistemato, come dice Garanzini, che non si può sistemarlo completamente, avrà ragione, ma al limite mettiamo delle regole un attimino più chiare, perché così è totalmente in capo a 2 arbitri, perché alla fine i guardialine, perché l'arbitro che è centrale non riesce mica a vedere bene un fuorigioco, piuttosto che una palla che sia entrata o non è entrata nella rete. No, tutto è vero, è tutto vero, però se lei, come dice, fosse capo di un'azienda, dovrebbe in questo caso poi far riferimento a uno statuto che non è solo nazionale ma è internazionale, quindi tutti questi discorsi sono interessanti, sono plausibili, sono positivi e sono innovativi, però alla fine se la FIFA decide che la moviola non può essere utilizzata neppure per consulenze via auricolare dagli arbitri, capite benissimo che siamo a un punto ancora molto lontano dalla possibilità di imporre anche delle scelte in ambito nazionale. È anche giusto che sia così, già ci sono delle differenze mostruose ancora oggi tra il modo di arbitrare nei vari paesi dell'Europa e tra l'Europa e Sud America, figuriamoci se poi ogni nazione avesse la possibilità di scegliere autonomamente come gestire alcuni aspetti come quello della tecnologia. Chiudiamo con Mario da Salerno, poi il moto mondiale, prego, velocissimo. Allora, salve, senta, io praticamente volevo dire una cosa: secondo me la moviola non è giusto utilizzarla, perché in questo modo si va comunque a inficiare sulla credibilità delle persone, quindi in questo caso degli arbitri. Cioè, un arbitro non può continuare la partita dopo che una sua decisione è stata praticamente cambiata da una macchina, che in questo caso che è una telecamera, e poi continuare ad arbitrare. Comunque, ma mica vuol dire che lui ha sbagliato tutte le volte volontariamente. Uno può sbagliare anche inconsapevolmente o perché pensa di fare il giusto. Gli arbitri, a mio avviso, siamo sbagliano sempre in maniera inconsapevole. Cioè, secondo me sbagliano sempre in maniera inconsapevole, quindi a me non sembra giusto. Poi continuare una gara con una persona che comunque sia stata colpita indirettamente da un gesto che è quello della Motorola. Cioè, almeno secondo me cambiare una decisione di un arbitro comunque va poi ad inficiare su quella che è l'intera gara. Benissimo, prendiamo atto anche di questa osservazione. Sono arrivate tante osservazioni di questo tipo, avremo modo eventualmente poi di affrontare altri aspetti sul tema, però ci sono ancora alcuni minuti da dedicare al motomondiale, al tema con cui abbiamo aperto l'edizione domenicale da Tempo di Sport con Mario Poltronieri. Un passo avanti, perché ieri Mario abbiamo raccontato la gara nelle fasi salienti, la grande bagarre. Oggi ciò che risalta soprattutto sui titoli dei giornali sono dichiarazioni molto forti da parte di Valentino Rossi e di Jorge Lorenzo. Qual è la tua sensazione in questo momento? Chi si carica di più con questo tipo di bagarre? Prima di tutto ti saluto, ciao Mario. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ma secondo me Valentino non ha bisogno di caricarsi, perché è già sempre un livello superiore. Secondo me Lorenzo è andato un po' sopra le righe, ecco, diciamo francamente, perché dopo una corsa dove comunque era stato battuto chiaramente senza particolari spallate, anzi come la volta precedente con una fluidità di sorpasso unica, forse non era il caso che dicesse quello che ha detto, e cioè in parole povere ha detto sì, comunque il futuro sono io e il futuro è già adesso, in sintesi. E secondo me lui si è lasciato un po' andare, perché tutto sommato è così convinto della sua superiorità e contemporaneamente del fatto che la squadra, anche se lo appoggia, lo aiuta eccetera, ha però la mente da un'altra parte, come del resto nelle riprese televisive si vede sempre che quando si inquadra il box di Valentino, anche quando Valentino non sta facendo cose sensazionali, c'è l'euforia. Negli altri c'è la costante preoccupazione del bisogno di evadere, e per il pilota del bisogno di vincere. Quindi secondo me lui si è lasciato un po' andare, però è chiaro che questo è anche un messaggio nei confronti di quelli che dovrebbero e potrebbero offrirgli una moto, cioè qui ci sono due scuole di pensiero per quelli, diciamo, degli addetti ai lavori. Cioè, uno che dice ma no, è la storia del calcio, basta che lo paghino un po' di più perché lui prende meno di Valentino, e lui probabilmente sta ancora un anno in Yamaha, quindi non creandoci problemi fastidiosi anche di immagine, perché quando un pilota forte comunque va via vuol dire che c'è sempre qualcosa che non funziona. L'altro invece che sostiene che lui ha la possibilità di avere un contratto non tanto principesco quanto sicuramente di prima guida, per cui l'ipotesi Honda lo solletica. Non dimentichiamoci che l'Honda era la più grande fabbrica in biciclette del mondo, è quella che ha le più antiche tradizioni, oltre ovviamente ai marchi storici italiani, sia come produzione sia come genialità nella costruzione dei mezzi, perché non dimentichiamoci che l'800 è stata fatta per fare un favore alla Honda, perché era quando era 999.000, e altrettanto la formula, la moto GP2 che il 600 velocissima, Mario, che siamo in chiusura. Sì, ecco, la sintesi del discorso è, secondo me lui si è fatto prendere un po' la mano, Lorenzo, sì, perché era stato battuto. Con i suoi però 22 anni glielo possiamo perdonare, no? Sì, però è un messaggio preciso a tutti gli altri che potrebbero o dargli una mano, o per lo stesso Valentino, vieni presente che i conti con me dovrei sempre farli. Benissimo. Grazie Mario, a presto, ci ritroviamo poi nel weekend con Donington e altri motivi di grande interesse per il motomondiale. Grazie a Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Risentirci domani con A Tempo di Sport su Radio 24 da Massimo Callegari.